324. Stufatino di petto di vitella di latte coi finocchi. Spezzettate il petto di vitella di latte, lasciandogli le sue ossa. Fate un battuto con aglio, prezzemolo, sedano, carota e una fetta proporzionata di carne secca. Aggiungete olio, pepe, sale e mettetelo al fuoco insieme con la carne suddetta. Rivoltatela spesso. E quando sarà arrosolata alquanto, spargete sulla medesima un pizzico di farina, un po' di sugo di pomodoro o conserva e tiratela a cottura con brodo o d'acqua. Per ultimo, aggiungete un pezzetto di burro e i finocchi tagliati a grossi spicchi, già ridotti a mezza cottura nell'acqua e soffritti nel burro. La cazzaruola, tanto in questo che negli altri stufati, tenetela sempre coperta. Quando parlo di cazzaruole intendo quelle di rame ben stagnate. Hanno a dir quello che vogliono, ma il rame tenuto pulito è da preferirsi sempre ai vasi di ferro e di terra, perché quelli si arroventano e bruciano le vivande. Questa screpola e suzza gli untumi. E col troppo uso comunica qualcosa che sa di lezzo.